and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Buon Natale. Buon Natale K, buon Natale. E buon Natale a tutti i bambini all'ascolto qui all'asilo. Mi fai un regalo? Tutti i bambini all'ascolto. Grazie. Ma perché male ascolto? Invece ascolto. Ascolto è bene. No, vabbè, schifo. Mi fai venire l'ansia del Natale. Vabbè, dai, comunque dai. Qui all'asilo, che bello oggi, atmosfera bello. Fantastica. La recita, vabbè, in la recita è un classico. Anche classico, noi alla scuola svizzera facevamo sempre la recita della Natività. Vabbè, tipico, tipico. Come Dio comanda. Bella però la Natività, bellissima. La grotta. Il bambino lì, ogni stracci, pastori. Sì, quelli barbe. Sì, ma no, aspetta, tutti confusi. Nel senso, noi non facevamo, la scuola svizzera non facevamo la versione palestinese. Ah no? Eh no, facevamo la versione svizzera. Natività svizzera con ambientazione svizzera di Beita di Sankt Moritz con piccolo Gesù bambino con svizzero con occhialone di ski. Ma come? Tutto pronto a lanciarsi in una discesa libera e vincere le medaglie. Ma quali stracci? Di svizzera c'era Beita, Sankt Moritz, Gesù bambino schiatore e c'erano mucche no asinelle, solo mucche. Solo mucche. Mucca svizzera, natürlich. E poi c'era anche di tre maghi. Magi. C'era di tre direttori di banca svizzera molto importanti che portavano tipici e tradizionali regali svizzeri di Gesù bambino schiatore. Ah beh, certo, quindi il cioccolato, l'orologio cucù. Oppure per essere fedele alla tradizione dei re magi, oro, incenso e mirra, no? Totale, semmai la birra. Ah, no, oppure birra, un piccolo schnapsel per Sankt Moritz, fa freddo d'inverno di Natale. Quindi i doni erano diamanti, erano lingotti, erano conti zifrati. Ma che natività era? È svizzera. Appunto, la natività vista dalla parte dei ricchi. Ma quali ricchi? Ma non va mica bene col messaggio di Cristo. Vabbè, almeno però era una natività. Scusa, oggi all'asilo stanno preparando Vita, morte, miracoli di Anna Montana. Anzi, solo vita e miracoli. Ma spiega che non ho mica capito. Vuoi dire che la recita natalizia è dedicata a Anna Montana? Beh, certo, siamo nel 2010. Ma... Sveglia, Drago, sveglia, Drago. Sveglia, siamo possibile? Nel 2010, Anna Montana. Tu sei fermo a Gesù Bambino, la grotta, il bue, l'asinello. Siamo a Natale, cosa c'entra Anna Montana? Ma girano le cose, vanno veloci. I bambini di oggi vogliono Anna Montana. Allora, vorrà dire che ci rassegniamo e ci faremo una cultura su Anna Montana. Che poi si chiama Miley Cyrus. Ma chi? Anna Montana. Ma come sarebbe? Si chiama Anna Montana. Sarebbe che la ragazzina vera si chiama Miley Cyrus ed è la figlia di un cantante country, mentre il personaggio della serie dei telefilm si chiama Anna Montana, capito? Sai che già questo non lo sapevo. Ma io ero convinto che la serie fosse un reality sulla figlia di un cantante country, che si chiamava qualcosa tipo Billy Montana e lei si chiamava Anna Montana. La carne in scatola, Jimmy Fontana. Ma come Jimmy Fontana? Ma cosa dici? Ti sei confuso con Billy Ray Cyrus. Billy Ray Cyrus, che appunto è il cantante country padre di Miley Cyrus, che è quella che impersona Anna Montana, ma anche Miley Stewart. Ma Drago, dai, allora Anna Montana ha una doppia vita, nel senso che la ragazzina si chiama Miley Stewart ed è anche la superstar Anna Montana. Come i supereroi, Drago, tipo Clark Kent e Superman. O tipo Paperino e Paperinic. Allora, Anna, alias Miley, ha paura di essere scoperta. Ma perché deve essere un segreto? Cosa? Che Miley e Anna, come si chiamano, sono la stessa ragazza. Ma che ne so, è la chiave, non lo so, Drago, tutto lì, no? Tu puoi vivere due situazioni da ragazzina normale, da superstar, e non venire compromessa e fare una vita pulita, schietta, e poi se ti beccano su YouTube in un filmato che ti fumi il bong, pazienza mica tanto, infatti la Disney non è tanto contenta. Ma insomma, è questa la chiave, capito? Doppia vita, doppia personalità. Ma che è? Voglio dire, non è... è profondo. Cioè, è una cosa... come... Vabbè. Ma come vabbè? Paperino e Paperinic, più o meno. Ma che Paperino? Qui si tratta di cose esistenziali, il successo, il country, c'è anche la sigla. Tu vivi in due mondi, ti rilassi un po', poi scateni lo show. Tu vivi in due mondi, Ciao, bambino Alberto, come va? Insomma, è Natale. È Natale, c'è la recita. Tu fai parte della recita, no? No, no, io no. Ma come mai? No, ho rifiutato. Ma dai, ma fai sempre la sociale, la recita, era una bella occasione, dai. Mi avevano offerto la parte del bue. Del bue? Quale bue? Il bue, no? Il bue d'asinello, la grotta, Betlemme, E tu dovevi fare il bue? Beh, è arrivata la maestra Bobbona che mi fa: ehi, bambino Alberto, facciamo che tu eri il bue? No, ma come? Scusa, guarda che quest'anno la recita non riguarda la Natività e Betlemme e quelle robe lì, Cosa? La recita non è la messa in scena della nascita di Gesù bambino, non è così quest'anno. Ah no? No. Ma come? La recita è su Anna Montana. Ma io non lo sapevo. Informati, Scusa, ma in Anna Montana non c'è un bue. No, infatti, in Anna Montana c'è un cavallo che parla, c'è il bue. So, forse avranno pensato di sostituirlo con un bue che parla per via della stazza del bambino Bertoldino, così mi facevano fare qualcosa. Cosa volete dire? Che sono grasso? Vabbè, dai, un po' pingue, lo sai, pingue un po'. Pingue? Pingue. E cos'è pingue? Da pinguino, no? Significa che sei un po' grasso. Sì, ma il bue è più grande del pinguino, Beh, sì, sì. Il bue è grosso, Cioè, il bue pesa 100 kg. Anche di più, forse. Più. Però, adesso che ci penso, il bue vince sempre con un mucchio di animali, Come vince sempre con un mucchio di animali? Che vince quando fanno la lotta. Per esempio, il bue nella grotta vince con l'asinello, no? Se metti che litigano. Sì, vabbè, però cosa c'entra se vince o perde? No, c'entra. A parte che vince anche col cavallo di Anna Montana. Vabbè, dipende, il cavallo vabbè, scaccia, ci metti pure tu. Ma il bue non scherza, No, certo. Cioè, se si incazza il bue... 50 centesimi. Dai, se il bue si arrabbia... Se il bue si arrabbia, spacca tutto, Ma scusa, ma non è che ti confondi col toro? Eh? Perché è il toro che è feroce, il bue è un animale mansueto, cioè proprio... Vabbè, ma non sono mica la stessa bestia. Ma no, Bertuccia, ci sono alcune differenze. Allora, Bertuccia te l'ho già detto una volta, te lo tieni per te. Comunque, dai, il toro e il bue, insomma. Comunque, io pensavo che fossero la stessa roba, no? Pensavo per tutto il tempo al toro. Invece il bue non è il toro. Il bue, per esempio, è castrato, il toro no. Diciamo che la differenza sta soprattutto in quello, E il bue è castrato? Sì. Ma cosa vuol dire? Che gli hanno tagliato... Possiamo spiegarglielo così. Castrato vuol dire che non è più un maschio, ma che non è nemmeno una femmina. Cioè? In pratica è una specie di... Un transgender? Un transgender? Più o meno. Transgender no! Ma perché? Dai, è il terzo sesso, ha una sua dignità, dobbiamo essere... Ho capito, ma io sono un bambino, E quindi io con certe cose non voglio avere niente a che fare. Forse hai ragione, Drago. Ma perché? Dai, sono proprio i bambini che non hanno pregiudizi, che possono capire queste cose. Ma io ho bisogno di certezze! Hai sentito? Per me deve esserci il bianco o il nero. Il buono e il cattivo. Il maschio e la femmina. Se no io vado in confusione. Ci manca pure che mi prendono con un transgender, e poi lo tutte. Un bue transgender. Pingue, solitario e pure finocchio. Ma dai, ma Alberto, così impari a usare le parole a sproposito, maleducato. Di stavolta un maleducato. C'è un errore, Perché? Cioè, finocchi cotti non si può dire. Ma tu non hai detto finocchi cotti. Ma è lo stesso, no? No. E poi insomma, è la vigilia e mi trattate così. Oh, povero bambino mio. È la vigilia, Io sono un bambino. Voi non avete nemmeno un regalino. Ma che sfortuna, bambino Alberto. Sfortuna, volevamo farti il regalino, suonata la campanella. Qua, invece ti facciamo gli auguri. Facciamo tanti auguri, buon Natale. Buon Natale. Ciao bambino Alberto, ciao. Auguri. Intanto niente regali e niente recita. Mi hanno offerto di fare il bue. Ma cosa andavo a fare il bue? Facevo solo una figura di melma. L'ho fregato, Il parrocciometro. Figura di melma. Melma. Melma, melma, melma. Ma no! Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma! Chiedo asilo. Un programma di Cap e Drago. Torniamo domani. Torniamo domani. Cosa fa? Ma torniamo lunedì, no? Punto, Caspa. Oggi è venerdì. A parte i saluti, bisogna anche fare gli auguri. Auguri di buon Natale a tutti. A chi? A tutti, a che ne so? Alla bambina Margherita Ina. Certo. Alla bambino Alberto Caserini. Auguri e al bambino Carmelo Lauricella. A tutti quelli di Radio 24. Così un po' a caso. A cazzo direi. Ma no, il parolacciometro! L'ha detto lui! E poi è Natale! È Natale, dai. Tanti auguri, bambino Alberto. Auguri. Sì.